Ad alta voce, Peppe Servillo legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Aureliano II non si accorse della cantilena fino al giorno seguente, dopo colazione, quando si sentì stordito da un ronzare allora più fluido e alto del rumore della pioggia. Ed era Fernanda che girava per tutta la casa lamentandosi che l'avevano educata come una regina, per finire da serva in una casa di pazzi, con un marito fannullone, idolatra, libertino, che stava a pancia all'aria ad aspettare che gli piovesse la manna dal cielo, mentre lei si stroncava le reni cercando di tenere a galla una casa tenuta su con gli spilli, dove c'era tanto da fare, tanto da sopportare e da rabberciare, da quando spuntava Dio fino all'ora di mettersi a letto, che finiva per coricarsi con gli occhi pieni di polvere di vetro, e tuttavia mai nessuno che le dicesse buongiorno, Fernanda, come hai dormito? Fernanda, né le chiedevano mai anche solo per cortesia perché era così pallida e perché si svegliava con quegli occhi pesti, anche se lei non sperava naturalmente che qualcosa di simile saltasse fuori dal resto di una famiglia che in fondo l'aveva sempre considerata come un impiccio, come lo straccetto per sollevare la pentola, come un pupazzo scarabocchiato sul muro, e che andavano sempre spettegolando contro di lei negli angoli, chiamandola bigottona, chiamandola farisea, chiamandola volpe, e perfino Amaranta, requis cat in pace, aveva detto chiaro e tondo che era di quelle che scambiavano il sesso maschile con l'equinozio. Benedetto Dio, che parole! E lei aveva sopportato tutto con rassegnazione per le intenzioni del Santo Padre, ma non aveva potuto più resistere quando quel malvagio di José Arcadio II aveva detto che la rovina della famiglia era stata quella di aprire la porta a una spocchiosa. Immaginarsi un po', a una spocchiosa prepotente. Dio mi aiuti, una spocchiosa figlia di mala saliva, della stessa indole degli spocchiosi che aveva mandato il governo a uccidere i lavoratori. Ditemi un po', e si riferiva niente meno che a lei, la figlioccia del Duca di Alba, una dama di tale prosapia da far rivoltare il fegato alle mogli dei presidenti, una hidalga di sangue come lei che aveva il diritto di firmare con 12 spagnolissimi cognomi e che era l'unica mortale in quel villaggio di bastardi che non si sentiva impacciata davanti a 16 posate, perché poi quell'adultero di suo marito saltasse fuori a dire sghignazzando che tanti cucchiai e forchette e tanti coltelli e cucchiai non erano roba da cristiani ma da 100 piedi. E l'unica che poteva stabilire a occhi chiusi quando si serviva il vino bianco e da che parte e in quale bicchiere, e quando si serviva il vino rosso e da che parte e in quale bicchiere, e non come quella selvatica di Amaranta, requis cat in pace, avesse la sfacciataggine di chiedere con il suo fiele di massone perché mai si era meritata quel privilegio. Se era forse perché lei non cagava merda, ma fiordalisi, immaginarsi, che parole. E perché poi Renata, la sua stessa figlia, che indiscretamente aveva visto le sue deiezioni nella stanza da letto, rispondesse che in realtà il pitale era d'oro puro e di pura araldica, ma quello che c'era dentro era pura merda, merda fisica, e ancor peggio delle altre perché era merda di spocchiosa, immaginarsi, la sua stessa figlia, di modo che non si era mai fatte illusioni sul resto della famiglia. Ma in ogni modo aveva il diritto di aspettarsi un po' più di considerazione, almeno da parte di suo marito, dato che bene o male era suo coniuge sacramentale, il suo autore, il suo legittimo pregiudicatore, che si era addossato per volontà libera e sovrana la grave responsabilità di toglierla dal focolare paterno, dove non si era mai privata né lamentata di nulla, dove intrecciava palme funebri per puro piacere di passatempo, dato che il suo padrino le aveva mandato una lettera e il sigillo del suo anello impresso nella ceralacca, solo per dirle che le mani della sua figlioccia non erano fatte per faccende di questo mondo, tranne che per suonare il clavicembalo, e tuttavia quell'insensato di suo marito l'aveva tolta dalla sua casa, con tutti gli ammonimenti e le raccomandazioni, e l'aveva portata in quella bolgia infernale dove non si poteva respirare dal caldo, e prima ancora che lei avesse finito di osservare le sue diete di Pentecoste se n'era già andato coi suoi bauli transumanti e la sua fisarmonica da giramondo in un luogo di adulterio. con una disgraziata alla quale bastava guardare le chiappe, beh, ormai le era scappata, alla quale bastava vedere come dimenava le chiappe da giumenta per capire subito che era una tutto il contrario di lei, che era signora sia nel palazzo sia nello stabiolo, sia a tavola sia a letto, signora di nascita, timorosa di Dio, ubbidiente alle sue leggi e sottomessa ai suoi disegni, e con la quale non poteva fare naturalmente le smorfie e i salti mortali che faceva con l'altra, che naturalmente si prestava a tutto come le matrone francesi, e ancora peggio a pensarci bene, perché quelle almeno avevano l'onestà di mettere una lanterna rossa sulla porta, porcherie simili, immaginarsi, non mancava altro con la figlia unica e beneamata di donna Renata Argote e di don Fernando del Carpio, e soprattutto di questo naturalmente. Un sant'uomo, un cristiano dei grandi meriti, cavaliere dell'ordine del Santo Sepolcro, di quelli che ricevono direttamente da Dio il privilegio di mantenersi intatti nella tomba con la pelle tesa come raso di sposa e con gli occhi vivi e diafani come smeraldi. Questo sì che non è vero, la interruppe Aureliano II. Quando lo hanno portato qui, già puzzava. Aveva avuto la pazienza di starla a sentire per un giorno intero, finché l'aveva colta in fallo. Fernanda non gli diede retta, ma abbassò la voce. Quella sera, durante la cena, l'esasperante ronzio della cantilena aveva sconfitto la pioggia. Aureliano mangiò pochissimo, a testa bassa, e si ritirò presto nella sua stanza. Il giorno dopo, a colazione, Fernanda era tremante. Aveva l'aspetto di una che ha dormito male e sembrava aver completamente esaurito i suoi rancori. Tuttavia, quando suo marito chiese se non sarebbe stato possibile mangiare un uovo bollito, lei non rispose semplicemente che dalla settimana prima le uova erano terminate, ma elaborò una virulenta diatriba contro gli uomini che passavano il tempo ad adorarsi l'ombelico e poi avevano il menefreghismo di chiedere fegati di allodole a tavola. Aureliano II portò i bambini a vedere l'enciclopedia, come sempre, e Fernanda finse di mettere in ordine la stanza di Meme, solo perché lui la sentisse mormorare che naturalmente bisognava proprio avere una faccia di bronzo per far credere ai poveri innocenti che sull'enciclopedia c'era il ritratto del colonnello Aureliano Buendía. Nel pomeriggio, mentre i bambini facevano la siesta, Aureliano II si sedette sotto il porticato e fin lì lo incalzò Fernanda, provocandolo, tormentandolo, girando intorno a lui col suo implacabile ronzio di moscone, dicendo che naturalmente, dato che ormai da mangiare non rimanevano altro che i sassi, suo marito si metteva lì come un sultano di Persia a contemplare la pioggia, perché non era altro che quello, un fannullone, un mantenuto, un buono a nulla, più molle del cotone in fiocco, abituato a vivere alle spalle delle donne e convinto di aver sposato la moglie di Giona, che si era bevuta tutta tranquilla la storia della balena. Aureliano II la ascoltò per più di 2 ore, impassibile, come se fosse sordo. Non la interruppe che quando stava ormai calando la sera, non potendo più resistere al rimbombo che gli rintronava in testa. «Ora taci, per favore», supplicò. Fernanda, al contrario, alzò il tono. «Non vedo perché dovrei tacere», disse. «Chi non vuole sentirmi, se ne vada». Allora Aureliano II perse il controllo. Si alzò senza fretta, come se pensasse soltanto di stirare le membra, e con una furia perfettamente regolata e metodica afferrò l'uno dopo l'altro i testi delle begonie, i vasi delle felci, i recipienti dell'origano, e l'uno dopo l'altro li fece a pezzi contro il pavimento. Fernanda si spaventò, dato che in effetti non aveva avuto fino a quel momento un'idea chiara della tremenda forza interiore della sua blaterata. ma ormai era tardi per qualsiasi tentativo di rettifica. Inebriato dal torrente incontenibile dello sfogo, Aureliano II ruppe il vetro della credenza e a uno, senza affrettarsi, andò togliendo tutti i pezzi del vasellame e ne fece polvere contro il piancito. Sistematico, sereno, con la stessa parsimonia con la quale aveva tappezzato la casa di banconote, andò rompendo poi contro i muri la cristalleria di Boemia, i vasi da fiori dipinti a mano, i quadri delle donzelle in barche cariche di rose, gli specchi nelle cornici dorate e tutto quanto era frantumabile dai salotti fino al granaio, e finì con la giarra della cucina, che scoppiò in mezzo al patio con una esplosione profonda. Poi si lavò le mani, si buttò addosso la tela cerata e prima di mezzanotte tornò con dei pezzi di carne secca salata, qualche sacco di riso e di mais col germoglio e alcuni streminziti caschi di banane. Da allora nella casa non mancò più la roba da mangiare. Amaranta Ursola e il piccolo Aureliano si sarebbero ricordati del diluvio come di un'epoca felice. Nonostante la severità di Fernanda, diguazzavano nei pantani del patio. Cacciavano lucertole per squartarle e giocavano ad avvelenare la minestra buttandovi dentro polvere di ali di farfalle negli attimi di disattenzione di Santa Sofia della Pietà. Ursula era il loro giocattolo più divertente. La considerarono come una grande bambola decrepita che trasportavano e mettevano negli angoli, vestendola con stracci colorati e pitturandole la faccia con nero fumo e annatto. E una volta furono sul punto di sbuzzarle gli occhi, come facevano coi rospi, con le forbici per potare. Niente li rendeva più felici del suo farneticare. In effetti, qualcosa dovette succedere nel suo cervello verso il terzo anno della pioggia, perché a poco andò perdendo il senso della realtà e confondeva il tempo attuale con epoche remote della sua vita, fino al punto che una volta passò 3 giorni a piangere sconsolatamente per la morte di Petronila Iguaran, la sua bisnonna, seppellita più di un secolo prima. Sprofondò in uno stato di confusione così strambo che credeva che il piccolo Aureliano fosse il suo figlio colonnello dei tempi in cui l'avevano condotto a conoscere il ghiaccio e che José Arcadio, che si trovava allora in seminario, fosse il primogenito che se n'era andato con gli zingari. Parlò così a lungo della famiglia che i bambini impararono a organizzarle visite immaginarie con esseri che non soltanto erano morti da parecchio tempo, ma che erano esistiti in epoche diverse. Seduta sul letto, coi capelli coperti di cenere e la faccia nascosta da un fazzoletto rosso, Ursula era felice in mezzo alla parentela irreale che i bambini descrivevano senza omissione di particolari, come se l'avessero veramente conosciuta. Ursula chiacchierava con i suoi antenati su fatti anteriori alla sua stessa esistenza. Godeva delle notizie che le davano e piangeva con loro per morti molto più recenti degli stessi interlocutori. I bambini non tardarono ad accorgersi che nel corso di quelle visite spettrali Ursula impostava sempre una domanda destinata a stabilire chi era colui che aveva portato nella casa durante la guerra un San Giuseppe di gesso di grandezza naturale, perché lo tenessero lì finché non fosse passata la pioggia. Fu così che Aureliano II si ricordò della fortuna seppellita in qualche luogo che soltanto Ursula conosceva. Ma furono inutili le domande e le manovre astute che gli vennero in mente, perché nei labirinti del suo farneticare Ursula sembrava conservare un margine di lucidità per difendere quel segreto che avrebbe rivelato soltanto a chi dimostrasse di essere il vero padrone del loro sepolto. Era così abile e così rigorosa che quando Aureliano II istruì uno dei suoi compagni di Baldoria perché si facesse passare per il proprietario della fortuna, la vecchia lo irritì in un interrogatorio minuzioso e disseminato di trappole imprevedibili. Convinto che Ursula si sarebbe portato il segreto nella tomba, Aureliano II contrattò una squadra di scavatori, col pretesto di far costruire canali di scolo nel patio e in fondo al patio. E lui stesso sondò il terreno con bacchette di ferro e con ogni sorta di detettori di metalli, senza trovare nulla che sembrasse oro in 3 mesi di esplorazioni spossanti. Allora fece ricorso a Pilar Ternera, con la speranza che le carte vedessero meglio degli scavatori, ma la donna gli spiegò subito che ogni tentativo sarebbe stato inutile, a meno che non fosse la stessa Ursula ad alzare il mazzo. Confermò invece l'esistenza del tesoro, precisando che era costituito da 7.214 monete seppellite in 3 sacchi di tela chiusi con filo di rame, in un cerchio con un raggio di 122 metri, prendendo come centro il letto di Ursula, ma avvertì che non lo si sarebbe trovato prima che cessasse di piovere e che il sole di 3 giugni consecutivi avesse ridotto in polvere le fangaie. La profusione e la meticolosa imprecisione dei dati sembrarono ad Aureliano II così simili alle favole spiritistiche che insistette nella sua impresa, nonostante ci si trovasse in agosto e sarebbe stato necessario aspettare almeno 3 anni per soddisfare le condizioni del pronostico. La prima cosa che lo meravigliò, anche se nello stesso tempo aumentò la sua confusione, fu il fatto che c'erano esattamente 122 metri dal letto di Ursula al muro di cinta del fondo patio. Fernanda temette che fosse pazzo, anche lui, come il fratello gemello, quando lo vide prendere le misure, e peggio ancora ordinare alle squadre degli scavatori di approfondire di un altro metro i vari fossati. Colto da un delirio da esploratore, paragonabile appena a quello del suo bisnonno quando cercava la strada delle invenzioni, Aureliano II perse gli ultimi depositi di grasso che gli restavano e l'antica somiglianza col fratello gemello si andò di nuovo accentuando, non soltanto a causa della magrezza, ma anche grazie all'aria distante e al fare assorto. Non badò più ai bambini. Mangiava quando gli capitava, infangato dalla testa e i piedi, e lo faceva in un angolo della cucina, rispondendo appena alle domande occasionali di Santa Sofia della Pietà. Vedendolo lavorare in quel modo, come non aveva mai sognato che potesse farlo, Fernanda credette che la sua temerità fosse diligenza e che la sua avidità fosse abnegazione e che la sua caparbietà fosse perseveranza, e si sentì rimordere il cuore per la virulenza con la quale aveva vagellato contro la sua indolenza. Ma Aureliano II non era disposto allora a riconciliazioni misericordiose. Sprofondato fino al collo in una fangaia di ramaglie morte e di fiori marci, rivoltò da cima a fondo il terreno del giardino, dopo aver finito col patio e anche col fondo patio, e trivellò così profondamente le fondamenta dell'ala orientale della casa che una notte si svegliarono terrorizzati per quello che sembrava un cataclisma, sia per le trepidazioni, sia per lo spaventoso scricchiolio sotterraneo. E il fatto era che 3 stanze stavano crollando e che si andava aprendo una crepa da far rabbrividire, a partire dal corridoio fino alla stanza di Fernanda. Ma Aureliano II non rinunciò per questo alle esplorazioni, anche quando si erano estinte le ultime speranze. E l'unica cosa che sembrava avere qualche senso era la predizione delle carte. Rinforzò le fondamenta intaccate, risanò la crepa con malta e continuò a scavare nell'ala occidentale. Si trovava ancora lì, nella seconda settimana del giugno seguente, quando la pioggia cominciò a calmarsi e le nubi si andarono alzando e si vide che da un momento all'altro sarebbe spiovuto. Così fu. Un venerdì, alle 2 del pomeriggio, si illuminò il mondo a causa di un sole abbondante, rosso e aspro come polvere di mattone e quasi fresco come l'acqua. E non tornò più a piovere per 10 anni. Macondo era in rovina. Nei pantani delle strade erano rimasti mobili schiantati, scheletri di animali coperti di gigli rossi. ultimi ricordi delle orde di avventizi che erano fuggiti da Macondo, con lo stesso stupore col quale erano arrivati. Le case, nate come funghi durante la febbre del banano, erano state abbandonate. La compagnia bananiera aveva smantellato i suoi impianti. Dell'antica città recintata non rimanevano che le macerie. Le case di legno, le fresche terrazze dove trascorrevano i sereni pomeriggi di carte, sembravano rase al suolo da un'anticipazione del vento profetico che anni dopo avrebbe cancellato Macondo dalla faccia della terra. L'unica traccia umana che aveva lasciato quell'alito vorace era un guanto di Patricia Brown nell'automobile soffocata dai rampicanti. La regione incantata che aveva esplorato José Arcadio Buendía ai tempi della fondazione era una marcita di ceppaie putrefatte sul cui orizzonte remoto si riuscì a scorgere per diversi anni la spuma silenziosa del mare. Aureliano II ebbe una crisi di disperazione la prima domenica che indossò vestiti asciutti e uscì per riconoscere il villaggio. I sopravvissuti alla catastrofe, gli stessi che abitavano già a Macondo prima che fosse scossa dall'uragano della compagnia bananiera, erano seduti in mezzo alla strada a godersi il primo sole. Conservavano ancora sulla pelle il verde di alga e l'odore di cantuccio che gli aveva impresso la pioggia. Ma nel fondo dei loro cuori sembravano soddisfatti di aver ritrovato il villaggio in cui erano nati. La strada dei turchi era di nuovo quella di prima, quella dei tempi in cui gli arabi in pantofole e con gli anelli alle orecchie, che percorrevano il mondo barattando pappagalli con cianfrusaglie, avevano trovato a Macondo una buona gora per riposare dalla loro millenaria condizione di gente transumante. Al di là della pioggia, la merce del bazar stava cadendo a pezzi. I generi esposti sulle soglie erano venati di musco, i banchi trivellati dai tarli e i muri rosi dall'umidità. Ma gli arabi della terza generazione erano seduti nello stesso luogo e nello stesso atteggiamento dei loro padri e dei loro nonni, taciturni, impavidi, invulnerabili al tempo e al disastro. Né più vivi né più morti di come lo erano stati dopo la peste dell'insonnia e dopo le 32 guerre del colonnello Aureliano Buendía. Era così sorprendente la loro forza d'animo davanti alle macerie dei tavoli da gioco, delle bancarelle delle fritture, delle baracche del tiro a segno e della viuzza dove si indovinavano il futuro e si interpretavano i sogni, che Aureliano II chiese con la sua solita sgarberia di che trucco misterioso si erano valsi per non naufragare nella tormenta. Come diavolo avessero fatto per non affogare? E uno dopo l'altro, di porta in porta, gli ricambiarono un sorriso astuto e uno sguardo trasognato. E tutti gli diedero, senza mettersi d'accordo, la stessa risposta. Nuotando. Petra Cotes era forse l'unica del luogo ad avere spirito di arabo. Aveva visto le ultime macerie delle sue stalle e delle sue scuderie trascinate via dalla tormenta, ma era riuscita a mantenere in piedi la casa. Nell'ultimo anno aveva mandato dei messaggi incalzanti ad Aureliano II e questi le aveva risposto che ignorava quando sarebbe tornato in casa sua, ma che in ogni modo avrebbe portato con sé una cassa di monete d'oro per lastricare la stanza da letto. Allora lei aveva rovistato nel suo cuore, cercando la forza che le permettesse di sopravvivere alla disgrazia. e vi aveva trovato una rabbia riflessiva e giusta, con la quale aveva giurato di restaurare la fortuna scialacquata dall'amante e che il diluvio aveva finito di sterminare. Fu una decisione così inflessibile che Aureliano II tornò nella sua casa 8 mesi dopo l'ultimo messaggio e la trovò verde, scarmigliata, con le palpebre infossate e la pelle squamata dalla scabbia, ma stava scrivendo dei numeri su pezzetti di carta per fare una riffa. Aureliano II rimase attonito ed era così squallido e così solenne che Petra Cotes non credette che colui che era tornato a cercarla fosse l'amante di tutta la vita, ma piuttosto un suo fratello gemello. «Sei pazza», disse lui, «a meno che tu voglia rifare le ossa». Allora lei gli disse di affacciarsi nella stanza e Aureliano II vide la mula. Era tutta pelle e ossa, come la padrona, ma viva e vegeta, come lei. Petra Cotes l'aveva alimentata con la sua rabbia e quando non aveva più trovato né erba, né mais, né radici, l'aveva ricoverata nella sua stanza e le aveva dato da mangiare le lenzuola di percale, i tappeti persiani, i copriletti di broccatello, le tende di velluto e il palio ricamato con fili d'oro e le nappe di seta del letto episcopale. Encontrar otro yo.